qui, aspettando un giorno nuovo, la rivincita del mondo. Le parole di mia madre, ce la puoi fare così. Mentre aspetto questo treno, questo viaggio come un sogno, il confronto con la vita non mi spaventa più. Ho sofferto anche io, per amore a modo mio, ho perduto il mio lavoro, amici e tempo, ho imparato a spese mie, che alla fine le bugie hanno gambe corte. Sono sciocche, prima di sentirti sconfitto, parla almeno col cuore, troverà lui la soluzione. Il destino ha sempre da fare, basta solo aspettare che qualcosa vedrai succederà. Abbi fede nei tuoi sogni, non lasciarli andare via. Dentro te c'è un mondo che non potrà mai finire. Prima di tirare le somme, se si chiude una porta, c'è la chiave per quel portone. Spalancato, pronto ad agire, non lasciarti cadere, l'umiltà prima o poi ti pagherà. E non è filosofia, se la vita è una poesia che scriviamo tutti per un giorno nuovo noi. Sono qui mentre parlo del domani, ma con niente fra le mani. Sacrifici di una vita dei genitori miei. Siamo una generazione definita troppe volte un po' debole, incoerente ed arrogante. Ma se ognuno nel suo io ci mettesse un po' di suo, non sarebbe più condizionato. Prima di sentirti sconfitto, parla almeno col cuore, troverà lui la soluzione. Il destino ha sempre da fare, basta solo aspettare che qualcosa vedrai succederà. Abbi fede nei tuoi sogni, non lasciarli andare via. Dentro te c'è un mondo che non potrà mai finire. Sì, troverai nei tuoi giorni la gloria che darà il senso di vivere in te. C'è una strada nel tempo che ora aspetta solo te. Aspetta.